È ufficiale, ci siamo giocati la prima ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Benvenuti, benvenute. Burro e Rock and Roll. Anche a voi che vi svegliate, che avete la fortuna, la tua colazione roll, di svegliarvi così presto. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Belli carichi, pronti ad affrontare anche la seconda ora di diretta di quest'oggi. Sempre il buongiorno dalla voce dell'Ariele, come ampiamente spiegato agli amici della prima ora. Ricordo che un occhio particolare quest'oggi verrà dato al sondaggione lanciato dal nostro Andrea 147, dedicato agli sfondi dei vostri computer. Però ormai quasi di abitudine, non vedo perché perderla il venerdì, che poi serve di più. Iniziamo la seconda ora di Pane, Burro e Rock and Roll ringraziando il nostro buon Mox Cristadoro, che ci aiuta con un brano al giorno. Mox Cristadoro, conduttore, abile conduttore di Easy Rider da mezzogiorno alle 2, ci aiuta con il primo brano della seconda ora, nel senso che ce lo facciamo consigliare da Mox in persona. Anche quest'oggi con molto piacere annuncio un brano italiano, tra l'altro un brano che a me personalmente fa impazzire. La formazione risponde al nome degli Area, tratta dal capolavoro intitolato Crack. La seconda ora di quest'oggi inizia con Elefante Bianco. Ciao, allegria! Ma quale allegria, Rogna? Guarda come ti hanno conciato! Allora, il topolino frigio, che busta sceglie, Dica, su avanti, scelga, Vada per la sperimentazione dei farmaci, ma questa cosa di testare i programmi televisivi è proprio una cattiveria! Signor Frigio, non temporeggi che il tempo passa, me lo fa notare anche il signor notaio, Allora, scegli la 1, la 2 o la busta numero 3? Rogna, ripigliati, sono io, Frigo, non mi riconosci? Guardi che non si può partecipare al quiz se ci conosciamo, È contro le regole, abbiamo mai sciato assieme, Lei era forse il notaio di Bis, È la mia storica trasmissione su canale 5? Maledetti umani, non vi bastavano i farmaci, 5 stagioni della ruota della fortuna distruggerebbero chiunque! Allora, Topo Frigo, insomma, la vuole smettere di dire sciocchezze e mi scelga questa benedetta busta! Tu non sei Mike Buongiorno, sei Rogna, una cavia da esperimenti, non un presentatore televisivo! Forse lei vuol dire, Topo Frigo, che porto Rogna, Ma come si permette di insultarmi così? Guardi che le scateno il notaio! Fai come cazzo ti pare! Risposta esatta! E adesso venga sul cerchietto, Venga qua sul cerchietto, sotto il riflettore, Molto bene! Allegria! Woman is the nigger of the world. Yes, she knew. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Put her down for being so dumb. Oh, well, woman. Potremmo anche non farla, lo strano ma vero di quest'oggi. Ma sarebbe un gran peccato. No, lo so, però perché? Ci sono delle regole nella radiofonia per la quale è meglio non parlare di certe cose a una certa ora della giornata. Lo so, ma noi siamo contro, noi di lei pane, dice, burro e rock and roll, andiamo contro anche a costo di farci male. Secondo lei si può parlare di sudore a quest'ora della giornata? Ma bisogna, lo abbiamo fatto con le parole ribelli. Esatto. Ha fatto perché? Di peggio con le parole ribelli. Ma perché? E allora sigla, vado col titolo. Cina, segnalato caso di sudore verde. Sempre all'interno della rubrica strano ma vero. In Cina fioccano le segnalazioni di persone la cui pelle, di fatto non per un capriccio, inizia inspiegabilmente ad espellere secrezioni colorate. L'ultimo caso è quello del signor Cheng Shunguo, 52 anni, di Wuhan City. Stando a quanto raccontato dallo stesso Cheng, il suo sudore è diventato di un brillante verde smeraldo. Udite, udite, brillante verde smeraldo a metà novembre. Ho notato che le mie mutande e anche le lenzuola erano diventate verdi, ha raccontato il cinese. I medici dell'ospedale cittadino lo hanno visitato, ma nessuno di loro è riuscito a capire la causa di questa insolita escrezione. I dottori lo hanno persino pulito, ma dopo appena 10 minuti il suo corpo ha ricominciato a sudare sostanza verde. Non riusciamo a trovarne la causa, avrebbe detto un portavoce dell'ospedale, si ipotizza comunque la presenza di un misteriosissimo parassita. I medici hanno fatto sapere che il caso del signor Cheng non è l'unico registrato nell'intero paese. La medicina cinese conosce casi di sudore rosso e blu. Il verde è decisamente una novità. Ah, quindi erano speriamo, a posto loro. Speriamo che arrivino all'arcobaleno. Arcobaleno è il più ambito. Piacerebbe un sacco sudare verde, maestro. Anche sudare arcobaleno, ci pensi? Sarebbe bellissimo. Troverei il tesoro sotto le mie ascelle. Bello! Mercy. Been waiting for the best of days. C'è un radioascoltatore là fuori che ormai ufficialmente parecchie puntate fa ha deciso di dare una mano a Pane, Burro e Rock and Roll. Ai tempi il nostro amico ascoltava la concorrenza, ascoltava le altre trasmissioni radiofoniche e ci aiutava nella sfida contro i grandi network radiofonici. Da qualche settimana invece si è inventato questa cosa: taniamo gli impiegati, i colletti bianchi all'ascolto. Buongiorno Andrea 147. Ciao Daniele, ciao a tutti. Hai sentito quanti desktop mi hanno segnalato? È con astio che ti rivolgo la parola quest'oggi, caro Andrea. Perché? Perché è una settimana che io e la redazione non facciamo altro che impazzire dietro agli SMS che continuano ad arrivare con i tuoi desktop. Bella idea, eh? Con i miei desktop. Grande, grande idea, caro. No, desktop e non desktop, quindi. Sento dell'ironia anche nella tua voce, ma ovviamente essendo un signore proseguo. Quelli che ho detto fino adesso non sono ancora tutti. Provo a leggerne degli altri. Qui la copertina di Black Holes and Revelation dei Muse, il 348, patentato. Chiedono se il cellulare come sfondo può andare bene? Ma io direi di sì, ecco. In aziendale sì. Grazie Andrea, eh. L'immagine della scimmia cattiva dei Griffin. Può andare bene. Qui abbiamo un amico che si mette la foto con Stratocaster, Gibson. Bella. E amplificatore Fender, Angelo. Abbiamo molti, continuano le segnalazioni di amici che hanno il desktop di Rock FM, scaricato dal nostro sito. È vero. Come Paola da Lucca, qui non ha un personaggio famoso del rock, ma un genio, ovvero Chaplin. Che ne dite, Cristina? Gliela accetti, Andrea? Io direi di sì, comunque un personaggio rock. Per forza. Perché no, insomma. Qui ho la foto della testa di mucca illuminata a notte, simbolo del festival di Wacken. Yeska, questa è roba violenta questa. Qui abbiamo la mia panda Ghostbuster. Qui ha la morte nera di Star Wars. Se manda anche nel cinema, stiamo andando. Sì, questo addirittura nello sport. Questo ha il mitico Tazio Nuvolari che arriva al traguardo guidando l'Alfa con una chiave inglese, esibendo il volante staccato, molto rock. Ross da Imola, questo. Sì, quello sì. Qui abbiamo... diciamo che gli impiegati sono veramente tanti, insomma, sono tanti all'ascolto. Infatti ti chiederei di non lanciare il prossimo sondaggio, per pietà. Aspettiamo, facciamo passare il weekend e ne parliamo poi magari settimana prossima. Ti dico, secondo me tra tutti quello che a me è piaciuto di più è questa: PC fisso in ufficio, ho la copertina di Ziggy Stardust di Bowie come sfondo. Sul portatile io e mia figlia Marta a Londra, nella cabina del retro della copertina di Ziggy Stardust. Hai capito? Si è fatto la foto, bello, addirittura bellissimo. Con la sua copertina. Però sarebbe carino se a questo punto rimandassero magari al sito o alla MySpace, in qualche modo. Le fotografie. In qualche modo, esatto, i desktop. E poi si può fare un po' come per le cartoline, insomma, si può fare. Senti Andrea, adesso sia chiaro, non è che noi siamo qui a perdere tempo dietro alle vostre idee. Cioè, se avete una vostra idea, gestitevela un po' voi, dovrebbe funzionare così. L'idea era quella di non lavorare noi e far lavorare voi. Però funziona più o meno. Ci avevamo pensato anche noi a questa cosa. Ne riparliamo. Facciamo passare il weekend, Andrea, per favore. Anche perché se no possono riempirti la tua mail con tutti i desktop, così ti si impalla del tutto. Tu dici ariel@radiorockfm.com. Sei ricco di idee questo venerdì, Andrea, particolarmente. Complimentonissimi. Facciamo che ci rinnoviamo l'appuntamento settimana prossima per un nuovo sondaggio per tanare i nostri impiegati all'ascolto. Intanto grazie del lavoro che ci hai fatto fare. Va bene. Ma non ti va di tornare a ascoltare la concorrenza? Ma sì, a tempo perso intanto ascolto un po' di concorrenza. È il patentato 147, alla prossima. Grazie a tutti, ciao. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can. walking only loose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Che la storia del rock non è fatta solo da accadimenti certi, ma anche forse di leggende, esatto, metropolitane. Esatto, a volte è quello che piace anche del rock and roll, ma no? Sì, infiorettare, esatto, colorire, metterci il fiocchettino colorato, infiocchettare, quante, certo, le leggende metropolitane che stiamo scoprendo grazie a Pane Purre Rock and Roll, ma soprattutto grazie al test attitudinale di pane, burro e rock and roll. La sapete? Trasmissione del risveglio mattutino. La sapete? Così quale? Era un sottotitolo. La sapete? No, la sapete? La sapete? Potremmo cambiare, non chiamiamolo più test attitudinale, ma la sapete? Esatto. No, brutto. Test, brutto. La sapete? No, non mi piace. Momento del quiz, una domanda, tre possibili risposte per aiutarvi, perché la facciamo semplice. Esatto, la semplifichiamo per venire incontro. Non vedo Mogetta oggi, cosa è successo? No, stavo pensando alla prossima battuta. Ok, allora io intanto vado con la domanda. Lei sì, no, però mi devo agganciare subito. A cosa? Il test è succinto per venire, il test è riassuntivo, sì, è breve, sì, per venire incontro alle loro ridotte conoscenze della musica rock. Cinico, sì, sono, no, bene, li ho sfidati, bene, ho voluto sfidarli. Li sfidi e voi accettate. Smentitemi voi la là sfida. Fuori che mi ascoltate, smentitemi. Reparto leggende metropolitane, nello specifico parliamo della celebre canzone Raining Blood degli Slayer. Yeah! Una roba veramente violentissima. Forse non tutti sanno che, secondo una leggenda metropolitana, sembra che Raining Blood ascoltandola al contrario, anche questa è una vecchia metodologia delle leggende metropolitane del rock, ascoltandola al contrario si possa chiaramente udire una voce che inneggia alla figura del diavolo. Oppure Raining Blood B sia ispirata o sia stata ispirata da un viaggio allucinogeno che regalò contemporaneamente a tutti i componenti della band la sensazione che la pioggia che stava cadendo in quel momento fosse di colore rosso sangue, profondo rosso. Oppure ipotesi C,